Aburoto, che sta facendo Aburoto qua, avanti. Attenzione 10K! Avanti, avanti sul 10. Cazzo, ma scendi so. Attenzione 10. Ora, ora. Ora, ora, ora, ora, ora. Presidente, cos'è questo casino? Non mi metto a smontarlo, non mi ricordo da capo. Ma, diventato il sergiano, magari da lì. Sto usando quello che ho sempre usato, con l'accendisigari, quello originale che deve andare con quello, capito? Quale cacce ne sono alimentato? Quello che stavo usando nell'altro portatile. Sì. Il suo. Cioè quello che loro, questo lui era già così, io non gli ho fatto nulla, gli ho solo attaccato, mi sono attaccato lì e basta, che ce l'aveva già. Che non lo so. Tu mi torna. Non lo so, io ho lo scotch chiuso. Che hai visto? No, sto con i 40 minuti. Se tu dei droni vai tu ho 110 watt. No, oh, apparisci andente, capo dell'antenna, è strana questa, sembra un ritorno, sembra. E cosa si è arrutti, sì? Chi è? Antonio! Cosa avevi? Antonio! Hai trovato il problema? Boh, non lo so cosa c'è, non lo so. Forse come muovo il microfono. Sta andando. Boh, non lo so. Oh yeah. Prima di capottata della zona. Vabbè, ho risolto. Antonio. Dimmi. Vabbè, risolto. Strano. Questo rumore, poi prima non me lo faceva. Ma adesso non lo sento. Non lo sta facendo. No, aspetta un attimo che apro qua. Prova. Prova. Due, tre, prova. No, adesso no. Gappa. Voglio rivedere un po' il capo. Non c'è qualche ritorno. Polarsi, no, non lo so. Sì, che ci libro da rappa nuovo. Gli avevo freddo, un gas, la mano che sto rappendieva, ragazzi. Vento, maestrale, che ci vuoi fare? Tocca andare piano piano. Io ho dovuto rifare i pezzi perché non andavano più bene in quella moto. Mi stava... Cazzo, molte volte non mi metteva più in moto. Porca miseria. Adesso quando gli ho fatto i pezzi non me lo fa più. ora un po' sfopatini, non aveva abbastanza compressione per mettere in moto, però non è strano, non ha ingrippato. Magari erano le facce consumate solo. Ma mica tanto, l'ho aperto, erano cazzo, in condizioni ottime, il pistone. Che uso un olio buono io. Quindi magari avendo 30 anni quel motore l'aveva rifatto. La compressione devi guardare. Vabbè, ho c'è il rodaggio allora. Sì, adesso ne ho fatto un po' di chilometri. Allora dovevo rifare per la moto, mi serve per andare al lavoro. Cazzo, quella lì ho dovuto rifarlo per forza il motore. Cosa facevo? Ma ho messo i pezzi, no? Poi ci sono i rulli, i variatori da controllare, tutte le cose, dai. Come i nuovi, da già appena giambate, da qualche mese. Allora si è a posto, dai. Allora puoi andare a proporre. Scappa. Io appena sostituito, cosa sono sostituiti? 4 mesi fa. Ne ho messi, che cazzo. Ho cambiato anche la cinghia, tutto. Adesso già. Io adesso piano piano, sto sempre andando, e ho provato a dare una dirada, quindi cazzo andami. Attenti che si impenna la moto. Sì, addirittura. Se faccio appena gol il Bruno si alza la moto, tutta attento. Un mostro è allora. No, non è che sia un mostro, però cammina, ce l'abbiamo la modificata. Capito? Per quello che fa così. Ti possiamo entrare. La molla Malossi. Ah, però è vero. Cara. Non entra in su tutti i sciopero. Sì. Sì, già vinta là. Uso olio racing, olio buono Castro, sto utilizzando Castro Racing, utilizzando come olio per tirare un litro, e ne ho un magazzino, ne ho perché c'è anche il Barda, l'avevo comprato fuori e ancora ne ho di olio, lo sono tenuto a parte per i momenti bui che non potevo comprarne. Ce l'ho. Milesi Racing. C'è l'olio Racing. Castro Racing sto usando. Il top per quello. Se c'è i pezzi devi trattare insomma. Sennò il fasci tutto. Di ingredienti, prende un sacco di dinà, faccia male i pezzi da voi, prendiamo anche questo che costa 3 euro, così cazzo inchiude il motore, cazzo, fai danno, cazzo, ma poi non mi parte bene, cosa, fa fumo, fai forza, tratti un altro mi fa dei schifo. Vera Goso, questo meccanico che è in Sicilia, Gianni Sabbia del Crisci. Cosa? Lo meccanico di Via di Sicilia, Gianni Sabbia del Crisci. Ma cosa pazzia? Dice che era bravo. Già era bravo, anche quello di Via Sorso era bravo. Di Via Sorso era chi su a contare moto. È morto già un po' di anni ormai quello. Come è bella Biagio in Via Sorso. Esatto. Sì. Ma c'era il signor Renzo, era bravo lo stesso. Anche Gianni Olivieri, quello di Via di Sicilia, era bravo. Quello era bravo sì, non si pigliava a Barugur. Cioè che era onesto anche. Perché? Di Via di Sicilia. È pensione, non so se è vivo, ancora. aveva chiuso non so quanti anni fa. Dicevano che era molto bravo. E poi gli aveva tolto il mappato delle poste, perché poi usciti gli scooter eccetera eccetera non c'erano più riparazioni come prima, quando c'erano le Vespe, il sì, ciao, bravo, te devi fare i motori di così, che ne sempre una di sì e una di no in officina. Però poi aveva preso l'appalto dalle poste, aggiustava la moto delle poste, capito? Poi l'ho montato quello e sicché travaglio una via nuda praticamente. Se sei bravo già ti chiamano, già te le portano le moto. Io vedo quello di via Sorso sempre pieno, chi su Franco Fais, chi su che va in via Civita Vecchia, che è dentro un buco, anche sempre pieno di moto, ha voglia che te le portano a aggiustare. Fa tagliando il burro, solite manutenzioni, te l'ha rifatto quello scherzetto, Andro? Lo so, perché sento il ritorno un casenco, boh, non è andato a fare questa cosa, strano. Vabbè, l'alimentatore mi ha detto non lo puoi cambiare, così. Lo posso cambiare, ma non è roba di alimentazione, male contro il cavo. Però non vuole il cavo microfono per capire cos'è, non so. Lascia vedere. È qualche ritorno, Gunghi si moto, Gungo Ruggiao, Gungo, si moto. Era sempre in officina, era, perché poi, e tu lo sai benissimo, i ragazzi sempre dire una manetta, mica conoscevano il motore. Cioè se veniva la strada è sempre la bomba. Io dico che è ingrippabile e cosa, mica come faccio io che sono attira a tira e poi mollo, soprattutto in strada, mollo la faccio andare la moto. Se tu molli la fai andare, poi riprendi e la fai andare. No, e cosa lo fai giusto, lo fai. Ma anche con gli altri pezzi, cioè con i pezzi originali, in discesa, in coso, ti davo una tirata e poi mollavo. Una tirata e poi mollavo. Ma chi deve tirare e molla? Tutto il mondo c'è la velocità e bomba, chiaro? Invece c'è la tira e molla. Anche perché poi c'è un freno a motore, chi si? Deve baffuto accelerare. A discesa già scende. Perché non puoi, la moto non si può esportare. Devi fare un pezzettino, e poi e cosa poi riprendi? Poi do. Un altro po' così, cioè non puoi stare, cosa fai? E facci tutto. Ma tra due tempi lo devi sentire, lo devi. Un variante non sa che c'è cose. Infatti la prima officina è una macchina, il motore a due tempi. La prima officina un po'. Abbiamo dei Mariani. Arrivavi in moto io perché tu non ne comprendi una mazza. Io? Apri l'officina, vedi a Mariani, e vedi a Mariani, arrivami le moto che non ne comprendi una mazza tu. Mariani già sa travagliare. Una volta l'ho portato da BC Motors a fargli fare una cavolata. La verità me l'ha fatta bene. Devi trovare quello non bravo, onesto, non bravo, onesto, a che vedo che ti dà contro una cosa e te ne facciamo un'altra, la torre in officina. È un gioco, ya. Ma infatti di Betti non l'ha fatto nessuno, me l'ha già fatto io, lascia perdere. Del casino questo. Ma se da Savoca la volta da un momento stavi cercando qualcuno per aggiustarti la moto, che ti aggiunta rega da sciocco, se ho detto. No, poi io mi sono rotto le balle e me la sono fatta io, come tutte le cose. Ho chiamato un ragazzo che mi ha dato una mano, la verità, gli ho dato qualcosa, gli ho regalato un litro d'olio e cose, mi ha dato una mano, è entrato in pistone e tutto. Finché ci arrivi, fatelo tu, ma oltre non ci andare, mi ha detto, perché dopo magari fai solo che danno. Sì, già, già è facile farlo. Ciò che è un po' impegnativo perché sono pezzi a liquido. Tutto, tutto liquido nuovo gli ho messo. Recupera, dai, ci mangio, piatto recupera, l'ho buttato via tutto. Non mangio di gaga pazzi in cui ero di liquido, no. Butta via tutto. E ieri si gaga pazzi in cui, pazzi in cui ero. Si onda dei meccanici di disegni, sì, sì, vabbè, il prezzo sarà 50 euro, 60 euro, 100 euro, vabbè, una ritornella, 200 euro, si muove di tanto, vabbè, ho dovuto fare chi, ci va via Borughino, va via l'altro, invece non è andato tutta. Ora che nemmeno un cazzo, sì. Sì, sì, sì. Sono lonfe, insomma, dopo magari non ti chiamare i pezzi, che te ci barra che cosa, fa guadagnare, dimmi, cosa vanno fatte bene, non così. Ormai c'è una cazzatina, oppure ormai vuole regolare la cazzatina, tutte queste cose, tutte le cazzate che vi vogliono 12 minuti. E ti codi una chicchiata, una che vanno tutta la tornata a palla, capito? Giustamente trovi quello che non se ne intende, perché chi porta la moto la giustare, giustamente. E così ti butti nei givi, E allora? Allora, magari da voi come stai già detto non hai fatto bene il rodaggio e cosa? Un amico mio l'ha regata da un meccanico, cazzo, da più di un mese si fa che la gabbia rulli, era incazzato come una belva, cazzo, gliel'ha portata, gliela, è impossibile dopo che di un mese, cazzo, fatta la gabbia rulli, vuol dire che non è giambata, non è messa nuova, di tutti gli altri pezzi in mezzo sono finiti, un casino. Sì, immagino, va ingrippato di brutto. Era una furia, era. Ma tu hai bucciugheso. Potrebbe essere anche difettosa di fabbrica, non lo metti in dubbio, però ti lascia il dubbio. Per una stronzata fa un danno, cazzo, che è enorme. Cioè, a chi t'entra nei pezzi in mezzo? Vabbè, no, un muro a via, chissà. E andiamo allo spino. Oh, c'è qualche Santa Maria. Sì. E chissà quanto è molto prossimo. Tutto vado. Chi si guarda, dalla più minore alla più manna. Però dove si chiama lì se stanno cercando un personale? Bene, è tutto a coso familiare, che ci so. Giornataccia, quasi tutta la sera goccato, so. Stamattina non trova niente. Sì. Ah, era Michele Peano, guida. No, non ti credo. Bravo. Che sei bravo. Ma sta frequentando in questo circolo. Da cosa? Da Mario. Da Davide. Ma lui va un po' dappertutto, va. Ha cantato quella canzone Applausi, la conosci, del Camaleonte? Sì, bravo, caspita. Lui canta bene, quindi quindi gli do un altro audio, capito? Per lui è diverso. Quando canta Eddo lo posso pompare in pianto. Ma c'è un amico io che tende a fare karaoke e mi va in capo tu. Non te lo dico il nome, qua in frequenza va. Ma se sono quello che sto pensando io. Cosa ti fate cura, isso? A te è un impianto d'olio, all'Aise, eh? Hai capito per la bella? Lascia perdere. Con i due zecchieri? Guarda, se non canti neanche tanto bene, cioè con il piatto mio riesci a cantare bene, perché i microfoni si sentono, non sono una... Io, guarda, ne ho girato tante, una merda, cioè proprio non sanno manco regolare. Molti che sanno cantare poco, cazzo, ci riuscivano perché quando andavi a cantare si sentiva bene l'audio, anche se non erano tanto bravi loro, però riuscivi a cantare. Invece devi stare a sforzare perché è uno schifo, proprio. Non è per dire, ma se tu intendi l'impianto mio, si sente non bene di più, perché è regolato bene. Cos'è il boccio, 1231? No, è regolato bene, capito? A confronto agli altri impianti. E poi io ho delle ultime casse, quindi è uno che si vanta di... mi fate la gara ad andare in bagno, mi fate 1.000 euro qua, non è, il fatto non è di spendere i soldi, il fatto è di farlo funzionare, che sono due cose diverse. Quello se l'uno da me, chi su RCF gli faccio uscire il fumo, cioè lo posso andare a 1.000 lo faccio andare. Ti mandiamo da Maria De Filippi a te. Quello impianto lì, sì, ma non lo sai, non ne comprendi nulla, non ne sai per funzionare. Quello se lo dai in mano a me, lo senti pompare, lo senti. Edu che fiaghino, non vedi, riesci a farla andare. Lo sai, gatto, lo sa ma con ganta. Ah, vai. Che cosa sono, sei buono, da. Ho detto, sei anche tecnico al suono. Io già me ne intendo già. Se c'è qualcosa che non mi piace, mi scivo un a gabbo. Non mica è sempre contento. Perché io, gli do gli suoni giusti. Capito? Perché si sente da Dio, si sente. Chi c'è un bel convinto, ma secondo me lo conosci pure, adesso non lo so come si chiama, un bel convinto, mi ha cantato Burucciancio, ha cantato me, arrivare, chiedo che io l'ha giocato con rigore a moto, chiedo mi va di... Io qua, io 600 euro ho comprato il Schubert e cose, ma non è che tu hai comprato, cioè, poi cosa li puoi dare? Uno che fa karaoke li puoi dare, cazzo, un microfono così costoso, ma tu sei zonato, tu sei fuori di testa, sei fuori di testa, veramente, cioè, io lo do un artista, lo do il microfono così, non lo do mica uno che fa il karaoke, no? E con tanto vai canta? È un griglia, tanto sanna, che canta bene. E tu devi andare a vantarsi, io 600 qua, 600 là, ho speso 1.000 euro qua, 2.000 euro là, dalle tue casse ne faccio due, sì. ma non è che tu devi farne due delle mie casse, devi anche farlo funzionare, perché io ci ho cantato col suo impianto, ti fa, per come è regolato, entri in bagno e ti fa una cagata, ti fa, che fa schifo, lì se li metto mano io 10 minuti, lo senti gridare, lo senti suonare forte, lo senti. Non è solo, ecco, guarda, da noi c'è Alberto, il nostro principale, c'è Alberto, che noi abbiamo un impianto che si chiama Martin. Cazzo, quando lo usa lui, a confronto ad altri fonici, ma anche quando usa il DB, suona che è una... Perché? Perché lui lo sa far suonare bene, suona che è una cosa impressionante, il fonico dei Bertas è lui, suona forte, anche con meno roba di quello che richiedono, lo fa suonare forte, c'è un suono che è impeccabile qua. A chi bisogna fare l'impianto, bisogna farlo suonare, non c'è nulla di fa. Allora, come mi porta a fare, se non ti ha mai chiamato a suonare. Edda mi chiamava, ma mia voce era un'incognita. La portatore? Sassari. Ah, questo ci aveva qua giù. Questa ragazza era sempre un giramento di scatto, però ho deciso di non farne più. Vero? Ecco, di longa, No, la storia invece no. Non ci ho mai avuto niente a che fare, ma con Edda Valurriz in Bulsciacara. Dovevo mangiare io, non è che te lo davano, era compreso di mangiare come ha fatto lui. No. Allora cosa ha fatto? Cazzo, mi poteva pagare pure un magnà. Mi dava la verità e ti dico, mi dava. Io l'ho accettato perché quel periodo senza lavorare. Cazzo, tu non te ne puoi approfittare di una persona così. Cioè, mi dava 30 euro e poi mi si poteva pagare pure un magnà. Io queste 30 euro non le vedia mai. Cazzo, io mi sono scocciato e non ne ho fatto più. Cazzo, una miseria di tanti. Devo andare per forza perché ne aveva bisogno. In quel periodo ero in mezzo alla cacca. Chi c'è chi sa quell'elemento lì? Lui non ci ho mai avuto a che fare. No, lui... Vabbè, quando gli ho fatto qualcosa, quello che gli ho detto, subito lì, manco per il travaglio, pronti lui. Ma è becco di longa, La prima che sempre è dove. Lo so. Edda mi faceva questo pezzo qua e non è giusto, non si fa così, cioè io sono un giudice che va a travagliare, non mi vuoi pigliare di una così, cioè se una cosa me la mangio, ma sto mangiando per fare la serata a te. No, Guido mi ha pagato e più, mi ha dato qualche cosa a mangiare e via, no, non ha avuto esitazione, capito? Ma infatti così deve essere, come se loro a portarti i panini, a portarti da bere, tutti che cose, cioè non deve neanche esistere una cosa del genere quando stai lavorando così. Però una cosa non mi è piaciuta, che ha detto che ci ha rimesso perché c'era poca gente, ma a me non me frega niente. Tu mi hai chiamato, ti hai chiamato la serata, è finito lì il discorso, poi vabbè già ne ha finita, dimmi che si goccia, che l'ha chiamato, comprendi che non me la fottia nulla. Perché molti ragionano così, se tu vieni nel mio locale mi devi portare gente. Tu non vuoi regalare niente. Me la ragionano così molti, Ma sua poi anche, perché dovevamo fare una locandina, dovevamo fare. Ma ce ne sono troppi, Antuveni, sono troppi. Si sa finire la guerra nulla. Già, ma a me non me ne frega nulla. Io facendo musica ci sto rimettendo. Ma non è un problema mio, dammi di là, ciao e via. Non me ne frega niente, a me non mi dividi nulla. Io ti ho fatto la serata, fate saluti, arrivederci. Paghi se non ne voglio farmi. capito, io preferisco più il privato che ti chiama, fa, adesso lo chiamo questi giorni a se vuole fare, che ti chiama, fai la serata, ti dice andendo, capito? E non ti dici nulla, a me che ci locali, no, non mandare più, perché pretendono che io devo per forza portare la gente. Così la ragionava che si via Sardegna, se la piglia dava con Costantino perché non gli ha portato abbastanza gente. Così la ragionano. Alla fine sono quasi questo che li guadagniamo. Tu li devi portare almeno un po' di persone, perché se no devi portarti appresso gente. Se no non sei valido, no, no, non conti niente. Vabbè, già è vero che c'è anche questa cosa, che come molti, come lui, in quell'occa determinata a fare, tipo, proprio il giorno lì, perché sanno che c'è Antonio che sta suonando, come Capeccia, per esempio, no? Quanti c'è da Sassari che vanno dove sanno che loro stanno cantando? Io non sanno che è bravo. È a due ore, Gizio. Ma c'è lo squarcio chiuso io. Ma me l'ha aperto. E così è lo. Oh, ya, e si passa in camera a pranzo, va. Mi messo da ruota, vedi come sta scaldando, non lo fa più. Ogni tanto se la fa, anche poco fa. Non è questo di scaldare, c'è qualcosa che non lo so. Io faccio un camera là con Mutova. Oh. Eccomi qua, sono arrivato. Mi ha spesso saldando. Thank you. Papa! Facciamo casino! Chiama fuori, Luca, ieri ti ho visto! E beh, Gigio! E allora, buonasera! E beh, com'è andato ieri a Costantino? Alle 8 bene. convinti, buono. Ma che dico, prima possibile, no? Se a voi, chissà che di arri, canale, dove ti gusti. Allora, tu mezzo, allora, tu mi convinti, ne c'hai noi. E un po' con tromiti, insomma. Bravo, insomma, fuve. Prima la pizza e te la consiglio. Allora, la pizza buona. Troppo contento, è molto meglio di quella in dotazione. Hola! Vabbè, era prima il vaccino, mi hai citato. Sì. Ah, me lo bello. Ciao, Antoni. Ciao, Antu. Allora. Sì, se sono stato un cavallo, mi gioco bisogno di casa. Boh, dimmi tu. E volevo bucata, ha fatto un'Eva a Samani, mamma mia, ma Eva mi, sono venuto a travagliare a Samani, carta, più via, a fiumi, e abbiamo proprio tragico che la prima la sera mi sono fatto una doccia, dal capapelli, tutto infuso. Ma l'aveva detto Giuliacci che fa già del fumare. Ero con un coso, come ti si dice, ero pura motto. Sono comprato piano piano. Ma ti sarai tutto infuso e basta. Ma a me non vale che non è una moto che si spegne, non mi si è mai aiutata a me con l'Eva. Ma non è mai successa una cosa del genere, perché c'è una testata sopra, quindi no, non mi passa l'acqua. E poi è molto... Sì, ho capito. No, di quello guarda devo dare merito, non mi si è mai aiutata questa moto nell'acqua. Che moto è, Antu? Piaggio NGR. Energia. Energy si chiama. Trappa. Io la sto cercando, una ha pochi soldi, ma... Tutte e due. Ma ne ho visto tanto, anche nel mercatino, a 300 euro. Così. E un 125 stavo cercando io. Capito. Guarda, io la mia l'ho fatto la Giubbus di 70 e andava bene. Sì, vabbè, io so così che di una regussia, ma come posso usare in due? Ci sono anche 50 dove ci possono sedere in due, eh? Tra 50 si può sedere in due? Sì, ci sono quelle monogatte che si può sedere in due, devi cercare una monogatta. Tu quando vai che meccanico, vedi, si lavo una. Io li ho! Con prezzo, col motore a posto. E infatti c'ho un parente io che è meccanico di moto e adesso chiedo chi me la può buscare, è lui. Sì. Vedi un po', 125 pure. Sì, infatti. Allora così tranquillo viaggiando. Io ce l'avevo, gatto, una 50, uno scarabeo era, dell'Aprilia, quattro tempi, ma lo sai quanto andava bene? Da un attimo, Natali, che sono al telefono. È incredibile, guarda, Natali. Tutti quanti in verano, e tu non verano. Se il posso. Tanto che non stavo seguendo. Cosa hai detto, Antu, che no, non ho capito quello che hai detto? No, ho detto che questo che mi deve portare le pizze, cioè, la guida che c'era al boss non ce l'aveva fatto, tutti i pirani. Ne ho capito. Io ho chiamato Bono allora, perché non sono solo. Ma io stavo dicendo, io ce l'avevo uno scarabeo 50, ma era nuovo nuovo, dopo mi l'ha già venduto, che ha già avuto bisogno di dinà e me l'ho venduto. Le mani mi dovevo tagliare, quello sì che andava bene, quattro tempi, ragazzi, troppo bella io. Vabbè, qua è il coso, il segreto dei due tempi che tu devi usare, un olio buono. Sì, già lo so, ma a me mi piace quattro tempi, perché così non devi usare niente, buone benzina e blu. Io uso quando vivo in Luzzo nella moto. E c'è sempre un grande affetto da parte. Dove cambiare, no, ma tempi non piace più di tanto, ma con la parete lo tiende. Guarda che camminava, amico, lo scarabeo. Cazzo, tanto camminava. Anche se era 50 camminava un bel. Poi la via erano di Manni. Cazzo, era il gruppo dopo. Mi sa che va giù e non anda, cazzo si anda. Sì, vabbè. Però il 4 tempi, cazzo, un giro di Giavi e poi è morto. Troppo doga io. No, io sono arrivato un secondo. Cazzo, e poi la nuova, eh. A me me l'aveva venduta mio fratello, perché era di mio nipote quella moto. È caduto mio nipote, non ne ha voluto più sapere di moto. E allora l'ha venduta a me, ma era nuova nuova. Modificata era. No, no, nuova dalla fabbrica, così io non gli ho fatto mai nulla. E camminava che era una belva che ci ha morto. Noi gli fazia 40, no, come dovrebbe fare. Io dico fazia minimo 60-70. Che cosa ha fatto tu le cose? Potrei dire che dalla casa devono uscire tarate. Eppure quella camminava un bel. Non gli ha fatto niente, no, mio nipote. Se la nuova di gioco di Zelli. Vabbè, cosa adesso? Ma sta cavannini. Guarda, se vuoi che cammini, ci vuoi, ci coglionti ci vogliono. Apri il coso, come si chiama? Apri il carter, ne togli una farina così a me. Cioè, un apparino così che c'è nella, come si dice, la contattura sarebbe, la levi quella, ci ripiazzi la cinghia, poi la prove, cazzo sei un cammino. Non lo so, quella lì camminava, io non gli ho fatto mai nulla, non gli ho fatto quella volta, camminava un pezzo, dicendo. Non è che gliel'ha tolta mio fratello la strozzatura, io non ne so niente, boh. Però io non gli ho fatto mai nulla. Infatti mia Maria è strano il cammino. È una fesseria, è una cosa che mettono nel variatore. Tu la apri, ne togli quella, ma quella non la prova, la moto cammina due volte di più, perché dalla casa devono uscire standard delle moto, capito? Chi se la becco 5 minuti se ne ha cavata, e evidentemente avrà fatto così, non lo so. Io non gli ho fatto mai nulla. È caduto mio nipote, non ne ha avuto più sapere di moto. Ed era 50 quella, c'aveva le ruote grandi. Sì, facevo la spesa io, perché c'avevo il bagaglietto dove mettevo il casco, no? Mi puniva e pesa in chili. Una gascia deva in Antara Bedana, chi lo aveva voce burro la Bedana, ma puniva la roba. In pratica